Colt 45, colpo singolo. Ogni volta che sparavi dovevi armare il car. Era chiamata artefice di pace, ma non ne ho portata molte di pace. No. I ragazzi oggi ne hanno altre, tutte automatiche. Preme il grilletto e parte la raffica. La storia a volte è buffa. Vogliono farci credere che Colombo scoprì l'America e gli indiani invece erano già qui. È come se io ti dicessi, mentre sei seduto in macchina, che io ho scoperto la tua macchina. E hanno pure la pretesa di chiamare i selvaggi pelli rossa perché non hanno consegnato subito la macchina. C'è un fatto rispetto al tempo. Per quanto poco o tanto ne passi, cambia le cose. Si dimentica il proprio passato. Si dimentica la verità. Ma le foto non mentono. Pistoleri dimenticati come Not Love, Eyes and Dart, Cherokee Bill e anche le truppe come il nono o il decimo cavalleria. Sapete, ci si dimentica del fatto che più o meno un cowboy su tre era nero. Perché quando gli schiavi furono liberati, molti di loro si diressero ad ovest. Costruirono città tutte loro. Certo, non avevano molta scelta. Oltre metà dei coloni originari di Los Angeles erano neri. Ma chissà perché, non sentiamo mai le loro storie. Storie come quella di Jesse Lee e il suo gruppo armato, la sua posse. C'era un gran giocatore d'azzardo, lo chiamavano Padre Eterno. E poi quel pazzo di Little Jay, lo chiamavano Briciola. L'omone era Obobo, era il braccio destro di Jesse. E poi c'era Wheezy e Angel. E poi, naturalmente, c'era il capo, Jesse Lee. Sì, amici. Erano loro la posse originale. Ora vi racconto la storia. E per tutto inizio una... Ecco. C'è un tema diretto, Cristoforo Colombo, e l'altro tema, gli scomparsi della storia. La parola al compagno Mora. Dunque, io volevo iniziare con una lettera che mi ha inviato un amico che ha letto il libro e che può servire da introduzione per spiegare come è scritto il libro. Ciao Andrea, complimenti per il tuo libro che si legge gradevolmente e senza difficoltà. E poi inizia facendomi degli elogi. La forma di dialogo scorre bene e permette di associare l'informazione che vuoi trasmettere in una forma letteraria leggera, tra virgolette. Mi pare che tu non voglia troppo sostenere una tesi, ma fornire elementi perché scegli di guardare e riflettere ad una questione molto allargata, questione che ha a che vedere con l'interpretazione storica in generale ed in particolare quella che riguarda la scoperta dell'America, tra virgolette. Trovo un po' azzardata la tua contrapposizione tra una storia falsa ed una storia vera. Qualsiasi lettura della storia è notoriamente parziale e quindi falsa, tra virgolette, anche se può contenere elementi di verità. Questo vale per qualsiasi ricapitolazione, interpretazione o giudizio su qualsiasi periodo storico, che non potrà mai contenere tutte le cause e gli elementi che hanno contribuito a crearlo, ma userà solo quelli che la cultura, la scelta e magari i pregiudizi dello storico e della sua epoca hanno scelto di privilegiare. Il tuo suggerimento che la storia di Colombo sia essenzialmente simbolica, ma non necessariamente veritiera, apre un discorso molto vasto, incentrato sulla fine del Medioevo e sulla fine delle letture simboliche che in esse erano la regola, e sull'inizio dell'età moderna, con una visione storicistica che è andata sempre più a caratterizzarla. Io credo che si riferisca, ecco, questa è la lettera che mi ha scritto questo amico, Massimo. Io credo che si riferisca anche alla citazione del libro, come si dice Roberto? In esergo. In esergo. La citazione è «Vi sono due storie» di Balzac, «Illusioni perdute». Vi sono due storie, la storia ufficiale menzognera che viene insegnata, cioè la storia d'usum delfini, poi la storia segreta dove si trovano le vere cause degli avvenimenti, una storia vergognosa. Lasciate che vi racconti in poche parole un'altra storiella che non conoscete. La storiella che non conoscete è sul fatto che è molto dubbia l'esistenza storica di Cristoforo Colombo. Io ho iniziato a interessarmi all'argomento quando ho letto il libro di Michelone pubblicato da Renato, Il mito di Cristoforo Colombo. E Michelone ha un'intuizione, secondo me, geniale, perché mette in discussione l'esistenza stessa di Cristoforo Colombo. Eccolo, appena valletto. La sua tesi comunque si basa su una ricerca linguistica, non presenta prove storiche o non sviluppa le argomentazioni sui viaggi precedenti a Colombo fino in America o sulle grandi civiltà marinare come quella cinese o quella dei polinesiani o anche quella stessa dei vichinghi che oggi sono considerati quelli che almeno ufficialmente hanno scoperto l'America. Fino a poco tempo fa era in discorso che la prima persona a mettere piede in America dall'Occidente fosse Cristoforo Colombo, mentre oggi si accetta il fatto che i vichinghi fossero andati fin là, anche perché ci sono delle prove, cioè nel Terranova ci sono vestigia vichinghe di villaggi che provano che si erano non solo spinti fino là come viaggiatori, ma che si erano installati e che da lì fossero andati anche in America, tanto che quei territori ricevettero dove il giorno d'oggi si accetta l'ipotesi che i vichinghi fossero non solo andati in viaggi di esplorazione fino in America, ma che si fossero anche installati. Tra l'altro, accettando il fatto che fossero andati in Groenlandia, avessero abitato la Groenlandia sia nel lato orientale che nel lato occidentale, quando uno guarda in una cartina vede che l'America è molto più vicina alla Groenlandia di quanto la Groenlandia sia vicina all'Islanda o più alla Norvegia. Quindi, ora se i primi viaggi dei vichinghi forse furono il frutto di un caso, poi ci furono spedizioni in cui sapevano benissimo dove andavano, anche perché in America potevano trovare legno, che era quello di cui avevano più bisogno, legname che le correnti portavano fino a Groenlandia. I vichinghi avevano delle imbarcazioni Drakkar, non so come si pronunci, che queste più per risalire i fiumi o navigazione costiera, e poi avevano anche altre imbarcazioni chiamate Knarr che erano più adatte alla navigazione oceanica. Scusate. Parlavo prima di Michelone, che è stato quello che mi ha fatto interessare all'argomento. Michelone fa praticamente una ricerca linguistica e si sofferma giustamente d'altronde su il nome, già innanzitutto il nome di Cristoforo, che vuol dire Christum Ferens, colui che porta il Cristo. La colomba è l'uccello che appare quando, dopo il diluvio universale, Noè vede infine la colomba che indica che c'è terra. La colomba appare anche quando viene battezzato da Giovanni Battista il Cristo, Gesù. E quindi questo per la colomba. E fa osservare come anche il nome Veronica, che vuol dire vera icona, vera immagine, sia colei che ripulisce il volto di Cristo, e per cui i tratti di questo volto rimangono impressi. E fra l'altro si può notare che siccome Colombo si dice sia nato in 10.000 posti diversi, comunque in italiano è Cristoforo Colombo, in spagnolo è Cristóbal Colón, allora il nome Cristoforo Cristóbal è lo stesso nome in due lingue diverse, ma Colombo, se fosse in spagnolo, dovrebbe essere Paloma, non Colón. Invece in spagnolo è Colón, e in italiano non viene tradotto come colono, perché sempre bisogna mantenere il significato di quello che il suo nome indica, e cioè quello che porta il Cristo della civiltà occidentale, perché in fondo la tesi è che solo un uomo bianco e cristiano poteva compiere un'impresa di questa stazza. Fra l'altro, quello che si nota, Michelone già di questo non parla, ma quello che si nota è che i famosi documenti di Cristoforo Colombo non sono firmati né in italiano né in spagnolo e neanche in latino Christophorus Columbus, ma è un monogramma che viene apposto come un sigillo invece della firma, un monogramma che è S.S.A.S.XMYXPOFERENS, che SPO è l'abbreviazione in greco per dire Cristo e FERENS è quello che porta il Cristo, e quindi confermando quello che aveva intuito Michelone. Il simbolismo era molto in voga a quell'epoca, e per esempio Huizinga osserva come come un concetto potesse diventare un personaggio, come in un'opera teatrale. E questo, come anche si trovava tra i romani, in cui, non so, Pavolo o Concordia, erano delle persone fisiche, erano delle divinità. E nel Medioevo, anche per esempio nel Roman de la Rose, dice sempre Huizinga, cioè, ci sono i bella accoglienza, dolce umiltà, che erano immaginate come delle persone fisiche. Quindi in questo senso ha un valore affermare che Cristoforo Colombo potesse essere un simbolo di quello che la sua impresa aveva compiuto. Dicevo appunto prima dei vichinghi, che furono scopritori ufficiali, si può dire, al giorno d'oggi, però non erano gli unici marinai straordinari nella storia della navigazione. Bisogna ricordare anche che i cinesi, per esempio, erano molto in là nella navigazione oceanica, e addirittura nel 1421, quindi 50 anni prima di Colombo, compirono un viaggio, secondo uno scrittore, Gavin Menzies, che si è occupato di questo, che ha scritto un libro, 1421, l'anno in cui la Cina scoprì l'America. Ebbene, fecero praticamente il giro del mondo. Ma bisogna pensare che se le caravelle di Colombo portavano 200 poco più le tre caravelle marinai, la spedizione cinese, chiamata la flotta del tesoro, aveva 30.000 uomini, pare. Quindi, cioè, cifre che non hanno niente a che vedere con quelle di Colombo. Non solo avevano 30.000 uomini, ma avevano delle imbarcazioni che raggiungevano i 100 metri di lunghezza e a volte avevano addirittura 9 alberi. Inoltre i cinesi, pare già nel VII secolo, avevano inventato la bussola e in più le loro navi erano compartimenti stagni per cui uno su due poteva inondarsi, ma l'imbarcazione non andava a fondo. Oltre ai cinesi, un altro grande popolo di navigatori erano i polinesiani, su imbarcazioni molto più piccole, ma i polinesiani scoprirono tutte le isole dell'Oceania, anche perché avevano questa, non so se chiamarla fortuna, o comunque questo dato di fatto che andavano controvento, e questo era un grande vantaggio, perché se non avessero scoperto delle isole, giravano e con il vento tornavano rapidamente da dove venivano. Inoltre pare che avessero una conoscenza astronomica straordinaria, per cui si muovevano le stelle, e inoltre sapevano riconoscere 8 tipi di onde diverse, ognuno aveva un significato. Da lontano, vedendo certe nuvole, sapevano che era in cima a una montagna vulcanica, oppure gli stessi atolli si riflettevano, il colore degli atolli si rifletteva nelle nubi, per chi sapeva guardarlo. Loro ovviamente passavano molto più tempo nell'osservazione di fenomeni naturali di quanto facciamo noi, che abbiamo sempre degli schermi davanti a noi. Flavio scuote la testa. No, il salto storico è un po' eccessivo, bisogna vedere cosa facevano. No, certo. A metà strada, no? Certo. Non è imparagonabile con oggi. Ma perché noi non siamo, no, capaci di andare in mare con una barca, con una vela. Anche questo è vero. No, lascia perdere. Poi oltretutto sapevano riconoscere il fatto che ci potesse essere un'isola, anche, cioè un'isola per loro era molto più grande di quanto fosse in realtà, perché i resti di alghe o di altri vegetali che vedevano nel mare, vedevano da che parte arrivavano e quindi sapevano che in quella direzione sarebbe stata terra. Poi gli uccelli che tornavano a terra per dormire, la direzione verso cui andavano voleva dire che c'era terra. E poi avevano anche un bastoncino che mettevano in acqua e capivano dal rifrangersi dell'onda sul bastoncino se ci fosse stata anche lì terra. E in ultima istanza prendevano un maialino che avevano a bordo, lo buttavano in mare verso dove andava il maialino, quello era la direzione dove c'era terra. Quindi c'erano varie civiltà che avevano molto sviluppato la navigazione oceanica. Tra l'altro i polinesiani andavano regolarmente dalla Polinesia alle Hawaii e trovavano le Hawaii, cioè sapevano delle isolette, sapevano raggiungerle, e allo stesso modo poi tornavano indietro. Quindi è vero, loro erano nel Pacifico, non nell'Atlantico, però questo per dire che polinesiani, cinesi, vichinghi solo per citare i più importanti, erano navigatori che potevano benissimo compiere delle grandi traversate, ed, cioè, anche un dettaglio di in Madagascar la lingua che si parla, il Mandjan, è per il 90% uguale a una lingua del Borneo, per cui questi pare siano arrivati circa 1500 anni fa fino al Madagascar. Quindi, cioè, la gente viaggiava per mare, perché il mare non è l'elemento che separa, come diceva Hegel, è l'elemento che unisce. Ecco, su viaggi nell'Oceano Atlantico per arrivare poi a Colombo, pare che anche i Fenici non solo costeggiassero, per cui erano arrivati fino in Guinea, che invece poi nell'epopea del 400 si dice degli esploratori, che i portoghesi arrivano fino al Golfo di Guinea, beh, i Fenici, questo anche storicamente provato, ci sono arrivati 2000 anni prima. Quanto poi al fatto che i Fenici siano arrivati anche in America del Sud, in particolare in Brasile, sono state ritrovate moltissime monete fenicie in Brasile, e gli storici accademici hanno detto che era impossibile, per cui le monete sono state buttate via, perché non si può provare il contrario. Non si capisce bene perché ci sarebbe stata così tanta gente a fabbricare monete fenicie e distribuirle per le terre del Brasile. Quindi è possibile, come, però non ci sono prove per questa ragione. In Occidente già i greci anche erano grandi navigatori, a parte che Eratostane aveva già calcolato la circonferenza terrestre equivocandosi veramente di pochissimo, l'ha calcolato in 40.000, quasi in 40.000 chilometri, mentre invece credo sia 39.000 e qualcosa, insomma si era molto avvicinato. E poi c'è uno scritto di un tal Pitea de Messalla che racconta dell'Artico, dove il sole brilla per 6 mesi, la notte dura 6 mesi, quindi si era spinto ben a nord. Poi siano arrivati anche in America, non ci sono prove, ma questo è già un indizio sul fatto che fossero anche loro dei grandi navigatori. Poi c'è, in epoche più recenti, c'è una mappa di un veneziano, Andrea Bianco, del 1436, dove è segnata Antilla, a una distanza più o meno corrispondente rispetto alla costa europea, e poi dove c'è Terranova, chiamato Stoccafisso, che siccome lì era pieno di merluzzo, andavano a pescare il merluzzo, quindi sapevano di cosa parlavano. Poi nel 400, ma già anche prima, secondo uno storico francese, Jacques de Mathieu, adesso ho perso il filo. Storico francese. Sì, Jacques de Mathieu, il quale sostiene che ci fosse, durante il tardo Medioevo, c'era una tintura che veniva usata nei tessuti che pare derivasse da un albero che si chiama il Pau Brasil, che cresce originario di Sumatra, ma cresce anche in, in America Centrale, in Brasile. Prima sicuramente veniva dall'Oriente questa tintura, ma poi ci fu un'epoca in cui, quando Costantinopoli cadde e l'Egitto era sotto il dominio, adesso non mi ricordo, e, per cui questa tintura che veniva estratta da questo albero, il Pau Brasil, che serviva appunto per colorare i tessuti, poteva arrivare solo dal Brasile o da paesi che fanno parte oggi dell'America. Quindi, voglio dire, c'era background, forse si dice in inglese, che fa pensare che insomma qualcosa si doveva conoscere dell'America, non era per venire poi alla spedizione di Cristoforo Colombo. C'è un ecclesiastico, Pietro di Anghiera, che mette in dubbio, ironizza sulle grandi scoperte di Colombo, perché dice a un certo punto, lui era un ecclesiastico italiano, ma che era alla corte dei re spagnoli, di Ferdinando e Isabella, e dice, perché è iniziato a scrivere la sua opera enorme, monumentale, De Orbe Novo, nel 1493, quando Colombo, si suppone, torna dal suo primo viaggio. E dice a un certo punto, Colombo si diresse verso l'isola che lui pensava fosse Ophir. Ophir era l'isola dove c'erano le miniere d'oro di Re Salomone. Dice, ma se noi guardiamo i geografi moderni, noi vediamo che non è Ophir, ma sono le Antille e gli arcipelaghi vicini. Quindi evidentemente era già conosciuto che c'erano delle isole e che queste isole non facevano parte dell'Asia. E poi dice, sì, poi dalla vegetazione che descrive, gli animali, si capisce che dove è andato non è un continente, sono isole, però appunto le sue conoscenze geografiche sono molto più. Su Colombo, appunto, venendo al personaggio Colombo, si nota che appunto il fatto che molti paesi dicono che sia nato nel loro territorio, gli spagnoli, gli italiani in primo luogo, cioè gli italiani, i liguri, la Repubblica di Genova in primo luogo. Berlino è nato a Genova. E lì si dice Genova, Savona. La Corsica, in Corsica ci sono due luoghi, Calvi e Terra Rossa, dove il Cap Cors, dove si dice che sarebbe nato Colombo. All'epoca la Corsica era sotto il dominio di Genova. Un altro storico dice che era figlio di un re polacco che si era rifugiato, non so dove. Poi ci sono i portoghesi, gli irlandesi, i greci, i francesi, tutti dicono che Colombo è nato lì. E questa ubiquità della nascita di Colombo fa pensare che insomma non si sa di preciso dove sia nato. Tra l'altro non si sa neanche esattamente che volto avesse, perché tutti i ritratti sono diversi tra di loro, ne sono stati fatti a Iosa, e sono tutti postumi all'impresa di Colombo. In più non si sa neanche esattamente dove sia sepolto, perché prima pare fosse stato sepolto a Siviglia, ma siccome Colombo, qui fai tutto un discorso che sarebbe da sviluppare, ma siccome si dice che Colombo fosse di origine ebraica, allora viene portato a Santo Domingo, poi da Santo Domingo viene portato a L'Avana e poi da L'Avana viene riportato in Spagna a Valladolid. Fatto sta che c'è chi ha proposto di fare delle analisi del DNA, ma questo non ha dato ovviamente nessun risultato. Quanto poi appunto alla firma di Colombo, la cosa curiosa è che nelle capitolazioni di Santa Fe, che sono dell'aprile del 92, in cui i reali spagnoli gli affidano il compito di, come lui dice, di scoprire delle nuove terre, in queste capitolazioni di Santa Fe la cosa curiosa è che c'è il solito sigillo di Colombo, ex proferens e tutto il resto, e l'unico che firma le capitolazioni è Juan de Coloma, che era più alto funzionario del governo dei re cattolici, che era di origine ebraica. E Coloma in catalano, perché era catalano, vuol dire Colombo, quindi non si capisce bene chi sia Colombo, e forse Juan de Coloma, che ha nel suo stemma due colombi e che firma le capitolazioni di Santa Fe, non c'è nessuna prova, però così fa venire dei dubbi se non altro. Poi anche c'è il fatto che Colón a quell'epoca non era un nome così strano, c'era un famoso pirata, corsaro in realtà, francese, che si chiamava Colón, anzi erano due in realtà, c'era Colón il vecchio e Colón il giovane, e quindi anche loro avrebbero potuto essere Colón. La mia tesi personale è che fosse come un nome di battaglia Colón o Colombo, che fosse stato scelto per indicare colui che inizia la conquista dell'America, cioè nel senso l'America era conosciuta a un momento quando i re spagnoli riescono a cacciare gli ultimi musulmani da Granada, il famoso 2 gennaio finisce il regno nasiride in Spagna, a quel punto si sentono pronti per la conquista e la colonizzazione di queste terre, di cui hanno delle idee meno vaghe, io credo, di quello che si è voluto far credere, perché poi forse vedremo, ci sono delle cartine in cui è disegnata la costa dell'America, e allora se ci sono delle cartine vuol dire che qualcuno c'era stato e non una navicella da sola, perché non si fanno delle carte di quella di un territorio così ampio con una nave, a parte ce ne vogliono minimo tre, ma forse anche di più, in questo caso non è un breve tratto di costa che viene fatto, ma viene disegnata tutta la costa orientale dell'America e in certi casi anche parte della costa occidentale. C'è poi, cioè la mia ipotesi quindi è questa, che fosse un nome utilizzato come un nome di battaglia. Per esempio c'è uno storico portoghese, Faustino de Fonseca, che dice Colombo, da quando si decise di chiamarlo così. Secondo me è esattamente questo, fu deciso di chiamarlo così, quello che conquistava i territori nel nuovo continente, perché oltretutto c'è questa cosa che negli accordi di Santa Fe stipulati, quelli firmati da Coloma, per intenderci, stipulati tra i re cattolici e Colombo, gli vengono concesse delle cose enormi, grande ammiraglio di questo passi, anche se doveva ancora dimostrarlo, 10% delle ricchezze che incontrava, e anche questo ci può stare, ma poi viceré di Spagna. Ora, è abbastanza curioso che qualcuno sospettato di essere origine ebraica, quando in Spagna era, perché subito dopo che sono scacciati i musulmani, vengono scacciati anche gli ebrei dalla Spagna, e quindi che venga proprio affidato a uno sospettato di essere origine ebraica il titolo di viceré, lascia molto perplessi. C'è una cosa curiosa, perché naturalmente tutti i documenti veramente importanti sono tutti andati persi, quindi ci sono delle copie, tra cui anche il diario di bordo di Cristoforo Colombo è andato perso e c'è una copia. C'è un navigatore che ha una storia molto simile a quella di Colombo, e che è Magellano. Magellano è conosciuto per aver fatto il giro, per essere il primo che fa il giro del mondo, anche se lui personalmente non arriva fino alla fine, perché viene ucciso nelle Filippine da un re di un'isola delle Filippine. Però Magellano ha in comune con Colombo uno, lo stesso progetto di andare verso occidente per arrivare in oriente. Entrambi sono in Portogallo, Magellano perché era portoghese, Colombo perché la storiella di Colombo è che sarebbe durante una battaglia a largo di Lisbona, battaglia in cui non si sa se erano i veneziani che combattevano contro dei francesi o dei portoghesi che combattevano contro i genovesi, non si sa da che parte stesse Colombo. Comunque, insomma, in seguito a questa battaglia la sua nave brucia e Colombo si butta a nuoto, grande nuotatore, si fanno 4-5 miglia a nuoto e arriva in Portogallo a nuoto. L'oceano, insomma, non è particolarmente caldo lì, fra l'altro, e poi si fa una bella distanza. Comunque, insomma, Colombo si trovava in Portogallo, Magellano anche in Portogallo. Entrambi non riescono a far accettare al sovrano portoghese il loro progetto, perché i portoghesi cercavano la circonnavigazione dell'Africa per andare nelle Indie, per cui entrambi vanno in Spagna. In Spagna entrambi sono, come dire, assessorati da un cosmografo, nel caso di Magellano Faleiro, nel caso di Cristoforo Colombo Toscanelli, che era un cosmografo che fra l'altro non aveva mai viaggiato, di Firenze. E entrambi propongono il loro progetto ai re spagnoli, e nello stesso modo viene rifiutato, e poi un messo gli corre dietro per dire no, che hanno cambiato idea, e accettano. E addirittura hanno la moglie, nel caso di Colombo no, non era sua moglie, ma insomma la madre del suo secondo genito, che si chiama Beatrice. E quindi hanno molte cose in comune. Siccome quasi tutto quello che ci arriva su Colombo, sulla storia di Colombo, è scritto da Bartolomeo de las Casas, e anche da Hernando Colón, che sarebbe stato il secondogenito di Colombo. Però il libro di Hernando Colón da molti è giudicato apocrifo, cioè quindi un documento falso. Quello di Las Casas, anche quello è molto particolare perché viene pubblicato integralmente solo dopo 300 anni. Cioè viene pubblicato alcune parti prima, ma uno dice vabbè, ma com'è possibile che si sia ispirato per scrivere la biografia di Colombo a Magellano, che è successivo? Sì, ma è vero, Magellano è successivo, ma la biografia di Colombo come noi oggi la conosciamo è stata scritta dopo l'impresa di Magellano. Ecco, quindi insomma è quantomeno dubbio. Volevo leggervi una cosa, vediamo se la trovo adesso. Appunto, in cui Las Casas e Hernando Colón dicono, si ricongiungono diciamo all'interpretazione di Michelone. Dice ma quest'uomo illustre, lasciato il cognome introdotto dal costume, volle chiamarsi Colón. Quindi già dice volle chiamarsi Colón, quindi già non era il suo nome. Non per caso è da credere, quanto per la volontà divina che lo aveva eletto per operare quello che il suo nome e il suo cognome significavano. Come appare in molte parti della Sacra Scrittura, così opera la Divina Provvidenza. Di nome si chiamò Cristobal, vale a dire Christum Ferens, che vuol dire colui che porta il Cristo, e così si firmava alcune volte. Siccome lui è stato il primo ad aver aperto le porte di questo mare oceano, ebbe per cognome Colón, che vuol dire che popolò nuovamente, che era adatto perché grazie al suo lavoro e al suo ingegno scoprì quelle genti le cui anime per mezzo della predica del Vangelo possano andare ogni giorno a popolare la città del sole. Questo dice Las Casas. Hernando Colón, secondo alcuni in realtà anche la biografia di Hernando Colón è sempre stata scritta da Las Casas, cioè era un libro apocrifo, comunque sarebbe il figlio di Colón, che la biografia di Hernando Colón è scritta 60 anni dopo la morte di Cristoforo Colombo. Perciò che, così dice Colón, il figlio di Colombo, perciò che diremo che fu veramente Colombo, in quanto portò la grazia dello Spirito Santo a quel nuovo mondo che egli scoprì, mostrando, secondo che nel battesimo di San Giovanni Battista, lo Spirito Santo in figura di Colombo mostrò qual era il figliolo prediletto di Dio e che ivi non si conosceva. E perciò che sopra le acque dell'oceano medesimo portò, come la colomba di Noè, l'olivo e l'olio del battesimo per l'unione e pace che quelle genti con la Chiesa dovevano avere, poiché erano rinchiuse nell'arca delle tenebre della confusione. E per conseguente gli venne a proposito il cognome di Colón, che ritornò a rinnovare. Perciò che in greco vuol dire membro, a ciò che, essendo il suo proprio nome Cristoforo, si sapesse di chi era membro, cioè di Cristo, per cui a salute di quelle genti egli aveva ad essere mandato. E appresso, se con tal suo nome noi vogliamo ridurre alla pronuncia latina, che è Christophoros Colonus, diremo che, siccome si dice che San Cristoforo ebbe quel nome perché passava Cristo per la profondità delle acque con tanto pericolo, onde fu detto Cristoforo, e sì, come portava e conduceva le genti, le quali alcun altro non sarebbe bastato passare. Così l'ammiraglio, che fu Christophoros Colonus, chiedendo a Cristo il suo aiuto, che l'aiutasse in quel pericolo del suo passaggio, passò lui e i suoi ministri a ciò che facessero quelle genti indiane, coloni e abitatori della chiesa trionfante dei cieli. Cioè, i suoi biografi dicono questo, non è solo Michelone che lo dice, però questo viene assolutamente dimenticato, non se ne parla mai, ed è tutto un garbuglio la storia di Cristoforo Colombo. Tanto che mi ricordo che avevo letto un articolo quando c'era Montanelli che aveva una rubrica sul Corriere della Sera di un lettore che gli chiedeva delucidazioni su questa storia di Colombo, della sua morte, dove fosse conservato, cioè, e Montanelli gli dice a un certo punto: sì, la sua vita fu complicata sia da vivo che da morto. Comunque le consiglio di non mettersi a cercare di capirci qualcosa in questa storia, perché è assolutamente inestricabile. C'è una frase di Stefan Zweig che, a proposito di Maria Stuart, Stefan Zweig ha scritto delle biografie molto interessanti, ha scritto anche una su Amerigo Vespucci, e ne ha scritta anche una su Amerigo Vespucci e una su Magellano, ma dice una cosa secondo me giustissima: il falso è mescolato in modo così sconcertante al vero e l'invenzione alla realtà che si può presentare nella maniera più credibile qualsiasi opinione. Per cui sono stati scritti libri e libri su Cristoforo Colombo, è uno, credo, degli argomenti su cui sono stati scritti più libri, però sempre prendendo come veridico il fatto che c'era questo Cristoforo Colombo che ha scoperto l'America. Forse adesso si accetta un po' che sono stati i vichinghi prima di lui, ma senza vedere il significato che questo ha rappresentato. Cioè, Las Casas e altri ecclesiastici che dicevano la cosa più importante nella storia dell'umanità, a parte l'incarnazione, il sacrificio del suo creatore, è la scoperta dell'America. Anche Sborro, dicono bene. Eh? E cazzo, avrebbero dato su un sacco di soldi. E giustamente... Invece Adam Smith diceva la cosa più importante, insieme alla circonnavigazione dell'Africa, è la scoperta dell'America che ha unificato il mercato mondiale. Un buon economista sarà questo. E secondo me qui c'è l'essenza di questa invenzione di Cristoforo Colombo, perché appunto che ci sia stata la conquista, questo è innegabile, lo sanno bene tutte le popolazioni americane, insomma, che hanno, se c'è un caso in cui si può parlare di genocidio, è sicuramente quello relativo alle popolazioni americane. Si calcola che, non so come facciano questi calcoli, ma dicono che il 90% della popolazione americana è scomparsa in un secolo dopo l'arrivo dei spagnoli e portoghesi. Secondo me anche la data, per esempio, del viaggio, perché lui parte il 3 agosto e una settimana prima era morto Bonifacio VIII, che era un papa ligure. Dopo la partenza di Colombo partirebbe senza sapere che il Papa Ligure è morto, ma al suo ritorno trova un altro Papa che è spagnolo. E secondo me anche lì ci può essere stata proprio la confusione sulla nascita di Colombo Ligure, o la nascita perché il Papa era Ligure, o la nascita di Colón spagnolo perché il Papa era spagnolo. Cioè, c'è questa coincidenza, coincidenze ce ne sono molte che vanno in questa direzione. Sì, poi ci sarebbe da dire qualcosa su Amerigo Vespucci, che Amerigo Vespucci non era di una famiglia povera come quella di Colombo, tanto che nella chiesa Ogni Santi a Firenze c'è la cappella Vespucci, in cui Amerigo sarebbe rappresentato come un angioletto, e quello è praticamente solo ritratto che si ha di Amerigo Vespucci, perché su Amerigo Vespucci non se ne parla tanto, alcuni dicono ah, però ha rubato il nome a Colombo, come si diceva ci fosse, quindi come una rivalità. Allora ultimamente hanno scoperto una lettera di Colombo in cui parla bene di Amerigo Vespucci, che secondo me è un falso anche questo, ma per mettere d'accordo un po' tutti. E Amerigo Vespucci nel 92, cioè l'anno in cui Cristoforo Colombo scopre l'America, da Firenze si trasferisce a Siviglia e ha degli agganci con Fiorentini, che Talberardi, che era quello che aveva l'esclusiva del traffico di schiavi per la Spagna. E poi Vespucci, anche lui è un personaggio un po' ambiguo, a parte che anche il suo primo viaggio sarebbe stato fatto con tre caravelle, come quello di Colombo, in totale avrebbe fatto quattro viaggi come Colombo. E poi vabbè, Vespucci è famoso soprattutto perché dà il nome ad America, cioè, questa è la versione ufficiale, si può anche discutere che sia proprio lui che dà il nome America, perché lui si chiamava Albericus innanzitutto. Nella chiesa Ogni Santi sì, c'è una tomba che è abbastanza divertente, perché il cicerone, diciamo, della chiesa mi dice: questa è la tomba di Amerigo Vespucci. Guardo, dico, ma qui dice che è morto nel 1476, cioè 30 anni prima di quando sarebbe stata la scoperta dell'America, quindi cioè quando lui ancora era in fasce, come c'è la tomba che poi fa tutte queste... Ah no, insomma, pare che sia il nonno che è sepolto lì. Ma il nome Amerigo, da cui viene America, presenta altre possibilità anche. C'erano, per esempio, una sierra Amerisque in America Centrale, c'era una popolazione indigena che si chiamava Americ, c'era un mercante gallese che si chiamava Richard Americ, insomma c'è varie altre ipotesi. Io personalmente ad un punto mi sono divertito, dico, ma chissà se... Ho notato una cosa, che c'è una cartina di Mercador, che era un geografo dell'epoca molto importante, in cui lui scrive America, ma dividendola in due parole, per mancanza di spazio, pare, no? Nella cartina. Allora, America, e io ho fatto l'associazione con Costa Rica, Puerto Rico, cioè rico vuol dire ricco, insomma, compagni come in italiano, dico, ma... E guardate, ho avuto la possibilità di avere un dizionario Tupi antico, e Ame in lingua Tupi vuol dire lì, in quel luogo, quindi vorrebbe dire in quel luogo è ricca, quindi America potrebbe essere tutt'altra cosa, lo dice, non da Vespucci, oppure sì, Vespucci, perché Vespucci quando va poi appunto in Spagna è... riesce a diventare pilota maggiore della casa di contrattazione di Siviglia, vale a dire che ha un ruolo come quello di ministro del commercio, e quindi sì, in quest'ottica che la conquista era soprattutto un commercio e una spoliazione, poi più che un commercio dell'America, può avere un suo senso. Ecco, poi ci sarebbero tante altre cose da dire ovviamente, ma sarebbe bello anche vedere queste cartine, se si potessero vedere, non so adesso. Ci sono nel libro. Ci sono nel libro, certo. Ma appunto, parlavo delle cartine, cioè cartina, sono tre le cartine, secondo me, che così colpiscono. Una è di Waldersmüller, che nel Ducato di Lorena c'era un circolo di intellettuali che facevano mappe o libri, era da poco stata inventata la stampa, e avevano un ottimo tipografo, e nel 1507 questo Waldersmüller disegna questa cartina in cui è disegnato Sud America e Nord America, non esattissimi, però si riconoscono bene, fatto con la proiezione globulare, per cui tutto si vede un po' schiacciato, ma insomma assomiglia molto. Poi c'è quella più famosa di Piri Reis, che era un turco, e in cui anche lì disegna... Scusando? Piri Reis 1513, Waldersmüller 1507, quindi pochi anni dopo la scoperta dell'America, quando ancora Balboa vede l'altro oceano, l'oceano Pacifico, nel 1507. Fra l'altro Balboa, cioè tutti questi personaggi sono di tipi spaventosi, raccontano di Balboa che viene ricevuto da quello che gli fa vedere l'altro oceano, e racconta che il fratello di questo era vestito da donna con altre quarantina di dignitari, tra virgolette, di selvaggi, e allora di fronte a questo orrore ne fa sbranare una trentina dei cani, cioè questi erano i conquistadores, no? Come Balboa, l'inventore del bagnoschiuma. Avevano praticato la caccia alle streghe prima di andare in America. Avevano praticato, tra l'altro, sì, giusto, questo nel 1484 viene dichiarato ufficialmente la caccia alle streghe. Vabbè, sarebbe tutto un discorso anche su questo. Poi, parlando delle cartine, c'è questa di Piri Reis del 1513, appunto, che disegna perfettamente la costa orientale dell'America del Sud e dell'America centrale. E poi c'è quella che secondo me è la più interessante, che è anche la prima del 1500 di Juan de las Cosas, che si dice fosse anche quello che comandava la caravella ammiraglia, cioè che non era una caravella, era una nau. Pinzon. No, Juan de las Cosas. Pinzon comandava la Niña. E questa cartina di Juan de las Cosas, vabbè, è disegnata tutta un po' storta così, ma si vede chiaramente l'America del Sud, si vede anche lo stretto di Magellano, fra l'altro anche lì sullo stretto di Magellano è sempre curioso perché Magellano aveva una mappa, quindi qualcuno c'era già stato lì e per questo riesce anche a trovare quel passaggio. Così racconta Pigafetta, che era il cronista del viaggio di Magellano. E in questa cartina è disegnata, per, secondo me, abbastanza esattamente in Sud America, è disegnato anche lo stretto di Magellano, e nel Centro America è disegnato San Cristoforo, per completare, per il fatto che sì, allora San Cristoforo era veramente importante perché era, lo si ritrova anche nelle mappe per indicare il fatto che sì, è tutta un'operazione commerciale, ma all'insegna del fatto che solo un uomo bianco e cristiano poteva riuscire a raggiungere un nuovo continente. Poi, fra l'altro, tra le varie popolazioni che probabilmente giunsero in America, bisogna anche ricordare gli africani. Mi ricordo una volta che parlavo con un antropologo italiano in Messico, gli dicevo, poi anche gli africani hanno viaggiato molto in America. E lui, chi, i negri? Per dire come, dice, no, sapete, non sono razzista, però insomma gli è uscito proprio così, perché solo un bianco cristiano poteva compiere un'impresa di questo genere. Io quello che ho voluto fare è stato dare un po' come, partendo dal libro di Michelone, ma in cui sono indicate secondo me solo l'intuizione, insomma, che Cristoforo Colombo può non essere esistito, ma ho trovato molto materiale su cui basare questa intuizione. In alcuni casi anche delle prove, perché queste cartine, per esempio, non c'è altra spiegazione se non il fatto che qualcuno già c'era stato, che siano stati i cinesi, probabilmente i cinesi che erano appunto, che avevano queste flotte straordinarie, e poi da tempo commerciavano con l'Africa. C'è per esempio una pittura su seta di un cinesino che tiene a guinzaglio una giraffa. Le giraffe ci sono solo in Africa ed è più antica, molto più antica del viaggio di Cristoforo Colombo. Quindi queste delle cartine secondo me sono delle prove, come sono delle prove anche quello che scrivono i suoi biografi, perché i suoi biografi scrivono, spiegano il mito, in poche parole, spiegano il mito di Cristoforo Colombo. Beh, adesso io taccio. Volevo solo dirti che in questa edizione, quella dell'85 di Michelone, è citata la scritta, il triangolo, cioè la scritta di Cristoforo Colombo, la sigla. Sì, è citata. Sì, è citata. Casomai nel primo libretto fosse no, ma questa è citata. Questa è la successiva. Christum Ferens, le S, c'è anche un'interpretazione. Sì, S, A, S, no? Sì. Aspetta, ce l'ho qui. Perché poi comunque... così sfogliando qua vedevo Vascasa che dice un momento quando Colombo arriva in America che i nativi portandogli cibo e oro in grano che avevano raccolto dopo che ebbero notizia che quella era la causa della sua venuta, cioè la ragione per cui era andato lì, perché cercava l'oro, infatti continuava a chiedere l'oro, dove c'è l'oro, e c'è quell'aneddoto di il nativo che butta l'oro nel fiume e allora viene legato per essere bruciato vivo, perché avevano questa simpatica abitudine di bruciarli vivi a fuoco lento. E il missionario che dice: allora pentiti, se no come fai ad andare in paradiso? E il nativo dice: ma anche voi andate in paradiso? Sì, dice, beh allora io preferisco andare dall'altra parte. Sì, infatti c'è Todorov che dice: se c'è un caso in cui si può parlare di genocidio, è proprio quello della scoperta dell'America. La parola al compagno Flavio Vito. Oh cazzo, dico due cose, no, è da molto volevo dire tre. Una, aspetta, adesso devo mettere il posto, perché sono qua, sono cinque cose una sopra l'altra. Una, l'idea principale che ho di questa faccenda di Colombo mi viene leggendo il libro di Carlo Ginzburg, quello che si chiama Il filo e la traccia, mi pare così, dopo lui parla di vero, falso e finto. La categoria del finto va applicata a Colombo, non la categoria del falso. Noi abbiamo sempre la mania di usare la categoria del falso, cioè è falso che lui abbia fatto così. No, la finzione attorno a un accadimento storico è quella che fa sì che l'accadimento storico, di cui non sappiamo gli sviluppi pratici, cioè pratici, gli sviluppi effettivi, lo svolgersi effettivo dei fatti, possa essere raccontata attraverso una finzione. Cioè costruiamo una finzione, la finzione prevede un personaggio. Uno, se voi andate a vedere il libro di Ian Watt, quello che si chiama, oh cazzo, La nascita del romanzo borghese, inizia, credo, con, non mi ricordo quale è lo scrittore inglese che lui prende in considerazione, ma siamo già nel 1700, quindi 100 passa anni dopo. Il romanzo borghese si basa fondamentalmente sull'idea di personaggio. Allora la mia ipotesi sarebbe quella, per mettere in luce l'importanza dell'impero spagnolo, le spese che facevano, spagnolo portoghese, le spese che facevano per andare in giro per il mondo a cercare di qua, a cercare di su, a cercare di là, occorreva dare un nome, un cognome, una visione e una personalità, in modo che tutti potessero aspirare a una tale posizione. Questa è la mia... Fare un film. Sì, fare un film. Invece di fare un film tu inventi un personaggio e le sue vicende. Infatti non è un caso che si sia dato là, è nato su, è nato giù, perché è una combinazione di elementi di fiction, come si direbbe, o di finzione, come si direbbe. Questa è la mia ipotesi sul perché a un certo punto nella storia si racconta di certi personaggi, si raccontano le vicende incarnandoli in un personaggio, in uno o due, no? Non è un caso che poi si sovrappongono, come dicevi tu, Amerigo di qua, quello lì di là, sì. Perché la finzione ha di per sé stessa delle porte d'ingresso posteriori, non so come dire. Cioè costruiamo quello lì, poi abbiamo costruito anche quel personaggio là, vediamo di metterlo insieme e costruiamo una terza versione. Questa è la mia versione del... Okay. E poi il risultato qual è? E poi il risultato è che tu puoi diffondere questa idea. Colonizziamo pure, siamo importanti, il capo dei colonizzatori sarà il migliore. Qui bisogna aprire un'altra polemica, un altro discorso. Ed è sui marinai che lavoravano nelle navi di quegli anni. Nel libro di, come cazzo si chiama? Clifford Connor. Di Clifford Connor, che non c'è il suggerimento. Non leggo io, non è teatro. Nel libro di Clifford Connor. Scusa. No, è la sua memoria. Come? Ma avete l'hard disk, le pennette, io ho robe, non sono roba, io che darò. Scusa. No, finisci poi, allora. Ah, nel libro di Clifford Connor, sulla parte sulla scienza popolare, la costruzione popolare della scienza, diciamo, i costrutti dove il popolo interviene a fare scienza, lui dice col cazzo che i marinai di Colombo erano, come si descrivono nella biografia di Colombo, dei poveracci impauriti, no, erano loro che gli dicevano dove andare, lui non sapeva un cazzo dove andare. E lui dimostra a lungo come loro da dove gli venisse questi saperi ai marinai. Non è vero che i marinai percorrevano i continenti bordesando, come si dice in genovese. No, che è più pericoloso. Esatto, non mica coglioni, quindi loro sapevano determinare, leggere la posizione in mare, leggere le maree, leggere e non andavano mai a sbattere contro gli sporchi. No. Gli stessi saperi. Ma mica sempre, scusa, no, ovvio, la sfiga vale anche per il passato. No, però allora è Colombo che si è ammutinato, che loro gli ha detto ma stai calmo, andiamo avanti. E lui che ha esattamente l'inverso. Aspetta che stava dicendo una cosa vana. Aspetta che finisco la riflessione e poi basta. La possibilità di attraversare l'Atlantico era già conosciuta secondo Conner presso i pescatori africani, ad esempio, o anche quelli spagnoli o portoghesi, che inseguivano balene molto in dentro, quindi conoscevano direzione dei venti, condizioni delle acque, eccetera. Quindi il sapere dei marinai, che non viene trascritto, non viene comunicato, bisogna andare a rompersi il cazzo a vedere chi lascia delle cose, era fondamentale per la costruzione dunque di Colombo rimuove questi saperi, dice ma so tutto io, si dice che lui andasse in Olanda a cercare delle carte di là, si riduce la complessità in una attorno a una modalità di descrizione di una persona che diventa personaggio, il che però produce, come si dice oggi, è propaganda, produce una importante influsso su i racconti e le possibilità, cioè guardate che se sarete prodi come Colombo potete andare dove volete, venite qua, vediamo chi siete, vi diamo dei soldi, ci date dei soldi e andate dove cazzo volete voi, ma dovete essere Colombi. Questa era la mia ipotesi desunta dalla lettura di Ginzburg. Sì, fra l'altro quindi siete 2 su 5. Eh? Mi dite 2 su 5. Quelle erano le 5? Non lo so, devi dire tu. No, fra l'altro c'erano i famosi fratelli Pinzon, che erano 3 fratelli, come 3 fratelli Colombo, come 3 le caravelle, perché il numero 3... La Trinità. La Trinità, quindi sempre fondamentale. Fratelli Pinzon, che erano marinai di Palos, dove lui parte, e che, secondo anche la versione ufficiale, sono quelli che gli dicono alla fine dove deve andare. Sì, lui era un imprenditore, come quelli moderni che non sanno un cazzo, parlava 20 ingegneri, 15 astronomi. C'era la banda che voleva dire. Sì, banda, no, vai. Una roba. No, volevo dire solo che il viaggio di nel viaggio di Magellano non pare che questi marinai fossero così edotti come dici tu. E Magellano, che almeno così come è stato presentato, che la sapeva lunga e ha avuto questo viaggio turbinoso e era così incerto lui quando è arrivato in America sul percorso che doveva seguire, che i marinai si sono addirittura ammutinati e volevano tornare indietro. Questo come Colombo, in cui l'equipaggio si voleva ammutinare e voleva tornare indietro. Ma questo non è la fiction, però. Ma personaggi... è successivo a Colombo. Sì, è successivo, ma quello che vi dicevo è che la biografia di Colombo è stata scritta dopo il viaggio di Magellano, quindi secondo me Las Casas ha preso da Magellano, ha tinto un po' molto dalla biografia di Magellano, la quale è assolutamente documentata. La quale è documentata, sicuri? Ma per Pigafetta era sì, comunque anche lì nel caso di Pigafetta, che era lo scrivano, il suo diario l'aveva consegnato a Carlo V, scomparso anche il suo diario. Pigafetta a un certo punto scompare, non si sa più niente. Perché evidentemente c'erano delle informazioni, io così almeno lo leggo, delle informazioni che non potevano essere diffuse. Cioè se veniva fuori che Magellano era andato lì perché gli avevano detto che lì c'era il passaggio esattamente a... no, che qualcuno c'era già stato, no, non si poteva dire. Anche se... Beh, ma all'epoca erano queste povere. Sì, perché no? Cook, l'esclusività, è considerato lo scopritore dell'Australia, a un certo punto scrive nel suo diario: ah, questo golfo non è così grande come me l'avevano descritto. E lui lo scopritore... ha scoperto l'acqua calda. Cioè, delle cose... Io volevo leggervi una cosa che trovo molto divertente, che è un dialogo tra la regina Isabella e Cristoforo Colombo. Scritto da Hollywood nel 56. Scritto, no, da Alejo Carpentier, che è uno scrittore cubano. Del... recente, del Novecento, secondo metà del Novecento, e dice, è la regina Isabella che parla: per essere franca, si dice che per portare sette uomini piangenti, cisposi malati, fogli e cespugli che possono solo servire come summifigio per lebbrosi e un oro che si perde nel buco di un dente cariato, non valeva la pena aver speso 2 milioni di maravedì. Colombo dice: le parlai dell'urgenza di tornare il prima possibile per diffondere la notizia della mia scoperta. Isabella: ho fatto analizzare le piante che hai portato da un esperto in aromi. Non c'è cannella, né noce moscata, né pepe, nemmeno chiodi di garofani. Inoltre non sei arrivato nelle Indie, disse, bugiardo come sempre. Colombo: e allora dove sono arrivato? Isabella: in un luogo che non ha niente a vedere con le Indie. Sapevi che in ogni caso, fosse come fosse, avresti toccato terra. Colombo: terra di tesori favolosi. Isabella: da quello che hai mostrato non sembra. Cioè, quindi questo appunto non è mica, ma mette in ridicolo, insomma, le tesi di Colombo, e tutto il libro è un po' su questo andazzo, perché in effetti ci sono molte cose che non quadrano. Ma perché la funzione? Perché la funzione? Poi c'è la tesi di Paolo Ranieri sulla scoperta in America, e cioè che in realtà tutti sapevano dove fosse America, ma siccome era un posto del cazzo non ci voleva andare. No, ma Flavio, quello che dici tu è interessante. Supponiamo che all'epoca il cinema ancora non c'era, siamo d'accordo? All'epoca. Questo lo dici te, no, che sei un editore, perché chiedo, ti viene bene? Te lo chiedo perché dice no, guarda che abbiamo già girato, no, supponiamo, sì. Supponiamo. Il mito è il cinema dell'epoca. La finzione, sì, il mito, Adesso bisognerebbe rileggere il del mito è... bisognerebbe rileggere Ian Watt, questo sulla nascita del romanzo borghese, perché lui parte, credo, da quello che ha scritto Robinson Crusoe. Defoe. Daniel Defoe. Se ci pensate, lì c'è proprio un protagonista che va per mare, che entra in un'isola sconosciuta, incontra qualcuno che non si sa bene chi è. Venerdì. Esatto. No, domani è venerdì, oggi no, dopodomani. Capito? Cioè, io non vorrei fare il linguista che non sono. Il libro di Watt inizia nel 720, cioè a partire dalla faccenda intorno ai primi del 700, sono passati 100 anni. 200 anni. Sì, attenzione, la stampa poi bisogna vedere come si è sviluppata, prima tu parlavi perché viene stampata, sì. Una cosa è stampare 1000 copie per le famiglie più benestanti di potere di un territorio chiamato Stato, un'altra storia è un'altra faccenda, 100 anni dopo stamparne 50.000. Magari c'era il teatro di strada, diffondevano attraverso il teatro, bisogna vedere quando è nato. Può darsi. Non c'era il cinema. Però bisogna essere, come dire, siamo d'accordo su, non è falso, ma è una finzione. Una supercostruzione che precede, forse non dico delle stupidaggini io, le grandi costruzioni del racconto del romanzo borghese di 100 anni dopo. Però io non sono esperto in letteratura, bisogna vedere nel 600 cosa scrivevano. Semmai scrivevano delle cose con dei personaggi, che avessero un nome, cognome, un indirizzo, un'abitazione. Questo è il romanzo borghese, abita là, in quel quartiere là, vicino a quella roba là, e fa quelle cose lì, e questo è il suo patrimonio. Sì, ma scusa, ma allora perché è stato assunto tutto questo insieme di... sono scritte, che è scritto in quel libro, no? Cioè tutti questi indizi, simboli, lui era un simbolo, lui era finto. Perché falso. Se tu fai una finzione, è caso di parlare, sì, e scusa, non mi interrompere. Ma credevo avessi finito. No, non ho finito. Ok. Oh. Stavo dicendo, adesso ho perso il filo e quindi non no, i simboli, i simboli. Allora, perché gli storici raccontano nei libri dei ragazzini che sono a scuola che Cristoforo Colombo è esistito, no? E ti raccontano, nato lì, fatto lì, c'è la statua, c'è il coso, ti raccontano tutto il viaggio e così via, e poi arrivano i cattivi conquistatori, no? La storia viene raccontata così. Possibile che non c'è stato un pirla che ha detto guardate che non possiamo dire a questi, non possiamo nei libri di storia scrivere tutte queste palle. Ecco, com'è che salta fuori? Com'è che questa cosa non è mai stata tenuta in conto? Come metti tu nel tuo libro, no? Il tuo libro è un insieme, mi ha sconcertato in questo senso che non sono riuscita a farmi un filo, è come se io non riuscissi a... perché cacchio ci hai messo questa donna che ogni tanto cucina qualcosa? È la sua fidanzata. Scusa, no, i personaggi devono avere un... Lui, Claudio Albertani è... semplicemente una rottura di scatole che ti dico io, no? Il personaggio deve avere... se appare un personaggio, scusa la voce, se appare un personaggio deve avere un suo senso, no? Comunque, ma questa qua che ogni tanto arriva a cucinare le aringhe, mi rompe le palle, perché già non capisco niente in questo libro. Mi hai dato dei grossi dubbi sulla mia capacità di tenere insieme delle notizie, perché metti tutte queste notizie, ma non ho trovato un filo. Poi arriva Vida che mi spiega la differenza tra il finto e il falso, e io mi domando, ma allora perché nei libri di storia c'è scritto Cristoforo Colombo? Ma quante cose sono scritte nei libri di storia che non conosco? Perché non è che mi ha durato uno stupido. Questo fotografo, no? E la foto del Milite era la stessa che dicevamo anche prima, no? Tutti conoscete Robert Capa per quella foto famosa del Milite. No? In realtà c'è tutto un dibattito che quella foto non sia neanche vera. Però si parla di cose, lei dice, insomma, si parla di cose vere, casomai non dette, no, ma Capa ha esistito. Ma lei si chiede perché nei libri di storia attuali, nella scuola, ci sono ancora queste rappresentazioni. Perché non è che si sono messi a scrivere questi libri nel 1898. Questa storia qui di Colombo probabilmente quando hanno cominciato a raccontarla così, questo vorrei ma sapere. Il cioè, top quando, è stato quando? Nell'Ottocento. Prego. Il top della storia, della narrazione. Della narrazione è dell'Ottocento, quando volevano canonizzarlo. Poi decidono di non canonizzarlo, non perché era un mercante di schiavi, ma perché aveva avuto un figlio fuori dal matrimonio. E allora, però è stato costruito poco a poco il mito, è stato costruito poco a poco e trova la sua massima espressione nell'Ottocento. Quindi in qualche modo l'idea che fa Watt nella sua storia del nascita del romanzo borghese è valida, perché in quel momento cresce e viene diffusa una figura portante di un pezzo di storia, i protagonisti della storia, quella stupidaggine lì. Siamo stati abituati a pensare alla storia così. Però voglio dire, ma non è che qualcuno ha costruito, forse non è esatto dire che ha costruito Cristoforo Colombo. Secondo la tesi di Michelone, i miti esistono. Ah, sì. L'origine, certo, non si sa, però diciamo, poi si evolvono. E lui dice che sotto a Cristoforo Colombo, la figura storica, quella, cioè, perché per noi è una figura storica, dietro c'è la figura di San Cristoforo. Sì. E ancora prima c'è un altro San Cristoforo vissuto sotto Decio, che era un San Cristoforo, l'hanno fatto anche santo, che aveva una testa di cane, era un decanto. L'hanno fatto santo, se vai a vedere sul coso. non noi dimentichiamo. Di, cioè, ci sono delle evoluzioni. San Cristoforo è quello che porta da una sponda all'altra, sì. Cioè su una sponda c'è un bambino che gli dice ma mi porti dall'altro lato, allora lui lo mette sulla spalla, col bastonaccio c'è l'immagine, lo porta all'altra sponda, diventa sempre più pesante, lui si rompe il bastone. Sì. E là, infatti, là su. Infatti Michelone dice, perché a un certo punto c'è una delle tre navelle che si rompe, no? Si rompe l'albero maestro. Questo mito viene poi storicizzato. E poi lo porta di là e porta il bambino Gesù da una sponda all'altra, quindi porta il cristianesimo, cioè evangelizza l'altra sponda, ecco. Cioè dico, sotto a Cristoforo Colombo c'è il mito di San Cristoforo. Mm. Sì, noi dimentichiamo che un altro che è un cinema, come dice lui. La cultura dominante è la cultura religiosa, noi dimentichiamo questa cosa qua. Gli illuministi quando arrivano, ma 50 anni dopo... Se ci pensi oggi come oggi, questo delirio lì in Israele, c'è una banda di psicopatici che dicono lì c'è il Tempio, c'è, loro hanno fatto l'alleanza con il Padre Eterno, loro sono qui, sono, e cercano la terra promessa. Ah, tra l'altro... anche se vai a vedere gli scritti di Cristoforo Colombo, anche lui cercava la terra promessa. Certo. Forse era meglio che gli dice, per i palestinesi sarebbe stato meglio che andassero dall'altra parte, perché avere questi qui, cioè, sul gobbo è pesante. Cioè. Sì, comunque il fatto che poi devi dargli il mito, ma devi alimentarlo questo mito, per cui appunto viene... scritto il diario di bordo di Cristoforo Colombo, le lettere di Cristoforo Colombo, per provare che è esistito. Comunque c'è questo... Per provare che è esistito, perché se no se mancano gli scritti, manca tutto, è più facile mi dire diceva... no. No, però scusa, se restiamo nella mia ipotesi della fiction, non insisto ma stupidamente, ma se tu fai una fiction ben... come quelle moderne, tu devi dire quello lì ha scritto quella roba là, certo. Quello lì ha letto quella fotografia là, è andato a cercare quella cartina là, dedotto, sì. Diventa molto interessante il personaggio, certo. Non è solo un conduttore illuminato da Dio, ma c'è una sua iniziativa personale, è il borghese, diciamo, è un po' presto per essere borghese, ma insomma, cioè, chi erano i coloni? Mica dei poveracci che... Sì, erano i poveracci che venivano mandati a... Era i nobili, era la parte più disgraziata dei nobili, l'Hidalgo. Sì, dopodiché... Li mandavano per mare. Andavano là, perché là potevano diventare ricchi. Nel libro che mi ha consigliato la Vanna, che si chiama Il primo inverno, quello di Blom, sì. È raccontata la nascita nel 1550, siamo circa, di... Amsterdam. Amsterdam diventa la città col porto così, perché lì cominciano ad arrivare navi dall'America piene di spezie, cioè una nave di spezie, cioè tu costruivi un mezzo porto con una nave di spezie, capito? Noi non abbiamo... Beh, anche Madrid era un paesino. Ma per dire, Amsterdam, che era un posto di merda con le paludi fin sotto i coglioni, perché hanno scavato, hanno fatto... questo linguaggio. E facci tu Amsterdam nel 1550, vedi che ridere. È un posto paludoso che viene pian piano conquistato, un suo posto, si fa un porto, poi dal porto nasce una città, si allarga. Ma la domanda della Vanna era, ma è possibile che... prima di Michelone, prima, poi... erano tutti coglioni. È una domanda che... merita una risposta adeguata. Non ho capito la domanda. Comunque mi diceva... Non è possibile che... Solo Michelone... Sono tutti coglioni e ci hanno preso tutti per il culo e nessuno si è accorto di essere stato preso per il culo. Perché i coglioni a lui erano complici, come quando parlava delle streghe, della storia delle streghe, no? Quando... scusate la voce. Quando hanno cominciato nei libri a scrivere, a venirgli in mente che forse questa faccenda delle streghe non era mica tanto giusta. No? Eh sì, ma per poi oltretutto che quando denunciavano qualcuno come strega, venivano pagati, o quando venivano denunciati dei tali come ebrei, ricevevano soldi quelli che denunciavano. Certo, sì. Quindi cioè, c'era un interesse economico molto forte. C'era questa convinzione che poi ha unito la caccia alle streghe, come probabilmente sai tu e tutti, non lo so, al demonio che c'era in America. Scusa che io ho bisogno della mia chiavetta, come si chiama? La traversata delle streghe, il farinetto. Esatto, farinetto. Allora tu fai on e off. Bisogna portare una proprio per ricaricarlo, però. Ma se no è sempre carico. Ecco, no, dicevo, questa cosa del demonio, no? Che giustifica anche il fatto che talmente tranquillamente si possono ammassare questi indigeni, come tranquillamente si possono ammassare queste donne, no? Sì, infatti io a un certo punto parlo proprio di quello, cioè in America c'erano gli stregoni che vengono massacrati e in Europa c'erano le streghe che subiscono la stessa sorte. No, è proprio il demonio, questi non volevano essere pagati quando denunciavano la strega. No, però erano pagati, forse non volevano, però erano pagati. No, non erano pagati, uno denunciava la vecchietta strega perché era convinto che il demonio la fosse in questa strega. Sì, non, perché poi erano completamente misogini, ma io ho letto che venivano pagati sia quando denunciavano gli ebrei che quando denunciavano gli eretici. Illustra le diapositive. Eh? Illustra le diapositive se hai voglia. Sì. Ad alta voce. No, volevo dire solo una cosa c'era un credente, uno anche che un colto, che mi spiegava che aveva visto il libro di Cristoforo Colombo di Michele Bonet. E lui mi spiegava, a parte che per lui era un gioco, era anche divertente questa cosa qui, però poi mi spiegava che per un cristiano, cioè nel cristianesimo, il Colombo è proprio una colonna portante, cioè tu non puoi pensare di abbatterlo, cioè togli, non so, crolla tutto, cioè non so, è un passaggio che non lo puoi toccare. In quanto il cristianesimo è stato per i cristiani, per i cristiani. È così importante perché sì, con Colombo, diciamo, quel cristianesimo... È la cristianizzazione dell'America, voglio dire, era anche il riscatto perché gli si era chiuse le porte a Oriente, cioè in qualche modo poi con la Spagna, eccetera, cattolicissima, avevano cristianizzato l'altro continente. Cioè voglio dire, è un passaggio, mi ha detto che per un cristiano non lo puoi toccare, sì, lo puoi fare così come un gioco letterario, ma in che senso? Perché beh, mi spiegava, adesso io non so dirtelo, però era convincente in quel senso. In Africa, dove in fondo c'erano le stesse ricchezze, diciamo, dell'America, cioè c'era l'oro, c'era anche la malaria, c'erano le spezie, c'erano gli schiavi, non è stato creato nessun mito di questo tipo. Bisognerebbe vedere che cosa si racconta dei primi trasportatori di schiavi dall'Africa agli Stati Uniti. Comunque, e al Brasile, non so. Delle colonie, prima non è che andavano all'interno, nel 1500, l'Africa era sconosciuta. Sì, però cioè, l'interno, l'Africa interno, sì, ma anche se c'è una cartina cinese del 1300 in cui si vede. Ma loro stavano dall'altro lato. Si vede il Nilo, si vede. Ma stavano tirando, sì, andavano viene su, sì, perché erano gli africani stessi che pescavano. Era loro c'erano, quello lì lo controllavano. Anzi, erano anche. Se non gli davano rete i cinesi, non è che scassassero. Che loro. E anche Vespucci è. A me non convince come personaggio storico, perché. Non so, per esempio, pare che avesse lavorato per i portoghesi e tutto, c'è un visconte di Santarém che si occupava appunto di tutto. tutta l'epoca precedente, e gli chiedono informazioni, e Santarem rispose che dopo aver studiato con cura gli archivi del suo paese non aveva trovato un solo documento che mostrasse che Vespucci fosse stato al servizio del Portogallo. Quindi e Van Zweig scrive: 32 pagine rappresentano tutta l'opera letteraria di Amerigo Vespucci, un bagaglio piuttosto magro e di poco peso per raggiungere l'immortalità. Tutta la gloria e tutta l'infanzia di Vespucci si fondano sulla base di un solo libro stampato a sua insaputa in un luogo sperduto dei Volsci, da cui ebbe origine la leggenda di Vespucci che dura ancora oggi. Che cosa resta in effetti della gloria di Vespucci se anche i suoi scritti non sono suoi? Anche lì ci sarebbe da... Perché poi oltretutto quello che rimane di Vespucci sono tre lettere che erano giudicate veritiere, scritte da lui, invece altre tre lettere che erano giudicate apocrife. Dopodiché arriva uno studioso, Magnaghi, e dice: no, quelle tre che si pensava che fossero false sono quelle vere, e quelle che si pensava fossero vere sono le false. Però secondo me quello che vedere è il fatto che Firenze e Genova erano le città più ricche dell'Europa. Erano Firenze ancora di più, ma anche Genova erano le due città, tanto è vero che un sacco di papi erano liguri, con l'epoca di vari papi liguri.